America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo intanto con una notizia. Certe fazioni dei servizi segreti pakistani stanno incoraggiando la resistenza dei talebani. Abbiamo avuto una lunga conversazione la settimana scorsa con l'ambasciatore Staffan de Mistura, il rappresentante del segretario generale dell'ONU a Kabul. Ebbene, ci ha detto che ci sono due binari: da una parte ovviamente l'offensiva militare, ma dall'altra il tentativo di avviare un dialogo, un negoziato politico con i talebani. Chi si mette di mezzo? Il Pakistan. È vero che gli Stati Uniti hanno attaccato coi droni postazioni talebane in territorio pakistano, che però servizi segreti del Pakistan, un alleato degli Stati Uniti, vada a creare problemi di questo genere ovviamente non è una bella notizia. Le tensioni con Islamabad sono dunque destinate ad aumentare e ci sarà secondo me un'escalation, anche perché il presidente Barack Obama si recherà in India ai primi di novembre e il Pakistan è sempre particolarmente attento a come Washington distribuisce i suoi favori. Ebbene, il viaggio sarà in India, poi in Indonesia, poi in Corea, poi in Giappone, ma non in Pakistan, e dunque questa manovra dei servizi segreti può anche contenere un messaggio di risentimento. L'altra notizia riguarda il dollaro, i rapporti valutari. Il segretario al tesoro Tim Geithner ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro ieri da Washington, dove sono cominciati i lavori annuali del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale. Di nuovo è tornato all'attacco contro la Cina, lo yuan deve rivalutarsi, occorre che ci siano dei rapporti valutari molto più trasparenti di quelli che ci sono adesso. Ma al di là di queste due notizie vorrei parlarvi oggi in modo più approfondito di uno sviluppo politico piuttosto importante in America, e cioè dell'idea per la creazione di un terzo partito. È proprio la voce di Donald Trump, il magnate dell'immobiliare americano. Dice: sì, questa volta, per la prima volta, sto seriamente considerando di correre per le elezioni presidenziali. Lo ha ammesso durante una intervista televisiva. Non è il solo. Sembra che ci siano altri potenziali candidati interessanti, addirittura per la creazione di un terzo partito. La provocazione più significativa l'ha lanciata l'altro giorno sulle pagine del New York Times Tom Friedman, autorevole editorialista, autore di libri molto importanti. Sentiamolo. Friedman, in un articolo che ha fatto molta sensazione in America, denuncia la grande insoddisfazione politica degli americani, del grosso della popolazione americana. Si ritiene che la politica sia polarizzata agli estremi: da una parte i Tea Parties, la destra estrema repubblicana, dall'altra la sinistra del Partito Democratico. Ma poi il grande centro che fine fa? Non c'è la possibilità di uno sbocco, e dunque, dice, il terzo partito, il terzo candidato nel 2012 avrà probabilmente un ruolo determinante. Friedman la prende in realtà abbastanza alla lontana, perché parte da un libro di Lewis Mumford, The Condition of Man, in cui in questo libro si descrive il declino dell'antica Roma, e afferma, prende un quote in particolare da questo libro, in cui dice: il prevalere della sicurezza sulla responsabilità, il rifiuto di prendere rischi erano problemi ben prima dell'arrivo dei barbari a Roma. Uno di quei passaggi storici così attuale, dice Friedman, da mandarmi un brivido lungo la spina dorsale. Gli Stati Uniti si identificano molto con l'antica Roma in qualche modo, ritengono ancora di essere la grande superpotenza, sentono il fiato della Cina, dell'India, delle altre grandi potenze industriali, e dunque si guardano allo specchio, si accorgono che il loro modello economico è in difficoltà e in crisi. Il dibattito è chiaramente più ampio, ci si chiede se il modello capitalistico americano sia ancora valido nel momento in cui emergono modelli di capitalismo centralizzato, per esempio in Russia, o di capitalismo autoritario, statalista, come quello cinese, che poi diventano anche dei punti di riferimento internazionali. Per esempio Anatol Kaletsky, ve ne ho parlato in una precedente puntata, che ha scritto Capitalism for the Birth of a New Economy, invita gli americani ad addolcire il mercato, pena, dice, la diminuzione di leadership economica degli Stati Stati Uniti. Dunque, torniamo a un concetto che fu discusso qualche tempo fa, e cioè al seme del declinismo e del declino degli Stati Uniti. Ci fu un libro importante nel 1986, insomma a metà degli anni Ottanta, un libro di Paul Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, in cui si pronosticava il declino assoluto degli Stati Uniti. E poi che capitò? Beh, poi cadde il muro di Berlino nell'89, l'America vinse la guerra fredda, ci fu la rivoluzione via internet che partì da Silicon Valley e i declinisti sparirono, non si fecero più sentire per qualche tempo. Ma tutto sommato questa logica del pendolo ritorna periodicamente qui negli Stati Uniti. E dunque, per discutere di questa situazione, di questa agitazione, di questa idea di creare un nuovo partito, di trovare una convergenza verso il centro, per aggirare questa polarizzazione che impedisce poi di andare avanti, di poter tradurre in azioni certe promesse politiche, diventa oggetto di dibattito. Ne parliamo con Larry Diamonds, professore di scienze politiche a Stanford University, che, devo dire, ci dà qualche notizia. But I can't say that there's more than one effort. Avete sentito Diamond? La notizia è questa: il movimento per favorire un terzo candidato in alternativa ai due partiti politici dominanti, ormai rigidi, corrotti, incapaci di cambiare, già molto avanzato. Dunque sta già capitando. Dice: non posso dirvi molto di più, ma c'è un gruppo di importanti americani coinvolti da decenni nel governo, in politica, nel mondo degli affari, che sono frustrati dalle attuali dinamiche politiche e stanno già lavorando al progetto. E dice: è qualcosa ben più importante di un chiacchiericcio, si stanno già organizzando, c'è una pianificazione strategica, una standardizzazione molto significativa, e credo, dice, che una volta passato questo ciclo elettorale per gennaio spunteranno fuori in modo spettacolare. Chi sono? Gliel'ho chiesto naturalmente, ma non ce l'ha detto, è ancora un segreto. Le voci dicono che possano essere gruppi che fanno capo a Michael Bloomberg, che fanno capo a vecchi saggi del Partito Repubblicano come George Shultz, lo stesso Donald Trump, l'abbiamo sentito all'inizio. Comunque il fermento c'è, devo dire un fermento tutto sommato non molto diverso da quello che stiamo vivendo noi in questi giorni in Italia, quando un giorno sì, un giorno no si parla di elezioni anticipate, di caduta del governo, di nuove coalizioni che si possono formare. Ecco, provochiamo ancora Diamond su un punto, perché poi in realtà negli Stati Uniti il cambiamento un po' c'è stato, il Tea Party lo ha portato il cambiamento, soprattutto all'interno dell'establishment del Partito Repubblicano. Sentiamolo. This is the old ballot access problem again. Mm-hmm. And then secondly, Republican voters are going to have to decide, oh my God, if I vote for her. Diamond prende atto del cambiamento portato dai Tea Party, però puntualizza, perché dice che sì, è vero che sembra che ci sia il cambiamento, però torna alla radice del problema, e cioè che intanto nelle primarie c'è un voto molto più militante, e poi il Tea Party è un partito polarizzante, non unificante, e dunque spinge di nuovo agli estremi e non contribuisce a risolvere il problema che si manifesta per gli americani, soprattutto lui la definisce per quella maggioranza silenziosa che non si identifica né a destra né a sinistra. Il progetto quale sarà? Quello di prendere moderati dei repubblicani, moderati dei democratici, farli convogliare in una nuova forza politica che possa sostenere appunto un terzo candidato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Right About Love è il nuovo album di Belle and Sebastian. È il primo album, tra l'altro, dal 2006 e uscirà il prossimo 12 ottobre. Vi proponiamo in anteprima una canzone di Belle e Sebastian, Little Lou, Ugly Jack, Prophet Joan. What a waste, I could have been your lover. What a waste, I could... Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.